magari dico qualcosa un po' sul campeggio, sul fatto che sembra comunque, si pensa che la polizia possa venire pure qua in questo campeggio e che si sta organizzando per difendere il campeggio. E si è creato praticamente all'entrata un gruppo che riporterà i baribario, la situazione ai cancelli. Ogni bario ha una radiolina, ha un delegato ai cancelli con un running, che è una persona che porta avanti e indietro le informazioni. Niente, la situazione al momento è abbastanza tranquilla e ci sono alla mattina e alla sera delle assemblee per discutere un po' sulle problematiche dei vari bario, su quello che si può fare anche a livello di sicurezza. Si è deciso che in caso che arrivi la polizia ci sarà un primo gruppo che andrà a mediare, a fare una difesa pacifica, e in caso questo gruppo non riesce a mediare con la polizia ci sarà un secondo livello di difesa un po' più radicale, un po' più deciso per spingere la polizia.